parte il nostro doppio o triplo appuntamento in scena alle 7:48 minuti dopo il GR di Radio Popolare. Alziamo il sipario sui 103.1. Avremo in conclusione un last minute in scena, anche se sono last minute un po' tutti gli appuntamenti imminenti per il weekend. Per quanto riguarda il centro della nostra città, che come ho detto in valore aggiunto grazie a ERT, in un momento particolarmente felice, al quale auguriamo anche ad ERT il meglio, appena presentato il nuovo programma 2024-2025, non si ferma di certo per l'estate, anzi con San Francesco Estate, musica e teatro in piazza, si porta ulteriormente contenuti di arte, cultura, musica, palcoscenico, estetica, bellezza, ricordo. Ricordo di una grandissima Amy Winehouse. Sarà questa sera un appuntamento musicale dedicato a una delle più grandi voci, anche lei nel club purtroppo dei 27. Una vita così fragile, una vita di un'autrice interprete quanto mai forte, ispirata e talentuosa. E il weekend che inizia dedicato ad Amy Winehouse, già dal titolo L'amore è un gioco a perdere, ispirato a un brano di una canzone che ascolteremo di Amy Winehouse, avrà modo, grazie appunto all'organizzazione di ERT, ma anche all'interpretazione di Melania Giglio, che sentiremo appunto a proposito della genesi di questi percorsi, insieme ad altri co-protagonisti, avrà modo di dare inizio il weekend di San Francesco Estate, musica e teatro in piazza. Per la rassegna Bologna Estate in piazza San Francesco, la curatela è di ERT. Per la giornata di venerdì 5 luglio, per la precisione alle ore 21, Melania Giglio, Amy Winehouse, L'amore è un gioco a perdere, ripreso il titolo tra l'altro da un noto brano. Do il buongiorno a Melania Giglio, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Com'è stato portare su un palcoscenico, tra l'altro in narrazione teatrale, questa vita così delicata ma nello stesso tempo anche forte? Come sei riuscita a fare tutto ciò? Beh, direi che è stata una sfida molto appassionante, perché la Winehouse è una personalità molto complessa, appunto, come tu dici bene. È una personalità che da una parte è stata musicalmente fortissima, aveva una personalità unica sia nel comporre che nel modo di cantare, nel modo di proporsi in scena, nel modo di usare la vocalità, quindi era davvero musicalmente un mondo specifico suo. Amy veniva dal jazz, dal soul degli anni 60 e lo ha rielaborato in un modo assolutamente unico, tanto che ancora oggi molti prodotti o vari sottoprodotti discografici cercano di imitarla, no? Certo. Quindi da una parte c'è questa forza artistica, questo talento dirompente, e dall'altro c'è invece una fragilità umana, personale, fisica proprio. In lei proprio il suo corpo è diventato la sua fragilità, cioè non faceva nemmeno nulla per nasconderla questa fragilità. E quindi mi ha interessato molto indagare questo aspetto, quindi di come a volte il talento non basta, no? Il talento c'è, l'arte c'è, uno dice ma come, hai tutto? Sei piena di talento, sei piena di aspettative, eccetera, eccetera, eppure questo non è bastato. Siamo partiti con questo brano, il brano che ha dato il titolo allo spettacolo di questa sera alle ore 21 in piazza San Francesco. Due parole per questa rassegna che seguiremo passin passino, anzi passo dopo passo, perché non voglio assolutamente usare diminutivi. Ha sorpreso tantissimo positivamente, con grande entusiasmo, anche la bellezza di Radio Ritmo per il venerdì appena trascorso con l'orchestra del Baraccano diretta da Giambattista Giocoli, uno spettacolo dedicato all'importanza della diffusione per quanto riguarda l'informazione radiofonica e per quanto riguarda tutto ciò anche nelle notizie false, le famose fake news. In questo caso abbiamo visto e soprattutto ascoltato sul palcoscenico di San Francesco Estate una rivisitazione tratta veramente dallo studio che è diventato palcoscenico, che ha riportato la guerra dei mondi, quindi un'attenzione particolare, sapete, no? La storia che ha portato nel delirio più totale con l'invasione aliena, raccontata da H.G. Wells, Orson Welles, poi nella struttura radiofonica. Insomma, è stato veramente, oltre che dalla musica, brani di Gershwin, brani che hanno riportato un ascolto molto molto intenso e una recitazione e narrazione con argomenti veramente interessanti e la bellezza di un palcoscenico nel cuore della nostra città. Grazie alla curatela di Earth, in questo weekend invece si inizia con una grandissima della musica scomparsa, giovanissima, Amy Winehouse, nel Club dei 27, questa figura che da grande carisma è tra l'altro sul palcoscenico, oltre che un'ispirazione nel soul, un'ispirazione nel jazz, nelle sonorità che nel cuore mi stanno, insomma, e una capacità anche di interagire con il pubblico grazie alla leggibilità dei suoi brani, nello stesso tempo con un arrangiamento speciale. Abbiamo ascoltato Love is a Losing Game, un brano, una ballad soul veramente molto struggente, se pensiamo anche ai percorsi di questa protagonista nel mondo della musica, dello spettacolo. Allora, come abbiamo concluso la prima parte di conversazione con Melania Giglio, ci ricolleghiamo con la riflessione che in effetti porta, no? Nell'immediato, beh, hai tutto, com'è possibile che puoi troncare tutto ciò in maniera così tragica? Ma a volte è proprio così, a volte è proprio questo tutto che dà una contraddizione fortissima, E per quanto riguarda Amy Winehouse, talento incredibile, sì, poi musica che amo tantissimo, e per quanto riguarda questa vita, hai preso uno spaccato, perché raccontarla è veramente qualcosa, seppur in 27 anni. Lei fa parte del Club dei 27 che ben conosciamo. Io ho raccontato i suoi ultimi momenti quando lei ha vissuto nel suo ultimo appartamento a Londra, e l'ho raccontata appunto dove in questo appartamento viveva con uno dei suoi migliori amici di infanzia, Tyler James, e con le sue due guardie del corpo. E quindi io ho messo in scena con lei, per questo ci sono Marco Imparanto e Lorenzo Patella con me in scena, perché interpretano Tyler James e una delle due guardie del corpo, Andrew Morris. Mi sono ispirato, ho letto naturalmente tutte le biografie possibili, immaginabili, ma alla fine il racconto, il libro uscito, pubblicato da Tyler James proprio, che si chiama La mia Amy, mi è sembrato il testo più interessante da cui prendere spunto e anche il più veritiero, perché in fondo lui è sempre stato con lei, sempre stato in casa con lei, anche quando nei momenti bui, nei momenti di gioia, fino a quando avevano 13 anni, quindi si conobbero alla scuola di teatro, quindi anche questo mi aveva fatto molta tenerezza, no? Lui ha scritto una biografia che è veramente molto dettagliata e che spiega molto bene i rapporti con gli altri membri della famiglia, i rapporti con l'ex marito, i rapporti con lo staff, i rapporti con l'alcol, i rapporti con la droga, cioè mi è sembrato una testimonianza piena di verità e allora da lì sono partita. Torniamo in diretta, Amy Winehouse, Rehab e gusto personale sarà la nota Motown che contraddistingue questa ritmica. È il mio brano preferito di Amy Winehouse, ma tanti sono stati i successi. Intanto ricordo che è questa sera alle ore 21, Love is a Losing Game, l'amore è un gioco a perdere, di e con Melania Giglio ai nostri microfoni e ringrazio per la disponibilità, e con Marco Imparato e Lorenzo Patella, la regia e di Daniele Salvo. Per quanto riguarda altre informazioni importanti, tutto ciò è a ingresso gratuito, però dovete prenotare e almeno avere modalità di confermare la vostra presenza sul sito bologna.emiliaromagnateatro.com o presso la biglietteria del Teatro Arena del Sole in via Indipendenza 44 a Bologna. Beh, una bella possibilità, quindi grazie a ERT, come vi ho detto, in un palcoscenico speciale, poi con una serata così, insomma, la musica di Amy Winehouse, il talento, la storia, la forza e la fragilità, uno spettacolo che certamente non lesina di emozioni. Allora, arriva messaggio al 333-180-9494, beh, su questo non sono informato, però per quanto riguarda l'eredità, quello che è poi riportato in un seguito alla fine di altri grandi artisti che vengono segnati come Michael Jackson, Kurt Cobain, che fine sarà stata per tutto ciò? Beh, guarda, già la vita ha avuto delle contraddizioni incredibili per quanto riguarda i rapporti con i familiari, per cui insomma tutto ciò resta un aspetto nascosto, ecco, come del resto ascolteremo nell'ultimo frangente di conversazione con Melania Giglio, che non ha, giustamente non abbiamo voluto, ci mancherebbe, svelare, anche se la chiacchiera è arrivata a portarci molto avanti all'interno dello spettacolo. Per quanto riguarda la storicità, vengono ripresi gli ultimi momenti per quanto riguarda il percorso di vita di Amy Winehouse, già di per sé breve. Quindi, per quanto è l'aspetto di quello che noi non sappiamo, beh, i motivi di riflessione ci sono e come, all'interno dello spettacolo di questa sera in Piazza San Francesco. Oltretutto, paradossalmente, questa fine arriva in un momento in cui pare invece ci sia una ripartenza, ma purtroppo... Esatto. Beh, intanto ho voluto renderle giustizia, perché come tu saprai bene, diciamo... Vox Populi, no? La dà come morta di overdose, invece non è vero, no. Cioè, la poverina, anzi, la beffa è stata proprio questa, che lei anzi si era disintossicata, quindi aveva molti meno problemi di dipendenza da almeno da quasi 2 anni quando lei è venuta a mancare. E poi dico tante altre cose sorprendenti della sua vita privata, umane, che la rendono molto donna, cioè aveva molta voglia di riuscire a farcela, ecco. Purtroppo non c'è riuscita, quindi ho anche voluto un minimo raccontare un po' di verità, no, su questa donna, perché poi è stata bollata, sai, come la tossicodipendente, come quella che si faceva di crack e basta, non è andata proprio così, ecco. No. E poi ci sono anche delusioni amorose. Beh, ci sono le delusioni amorose, ci sono rapporti familiari, insomma, un po' discutibili, che l'hanno molto sfruttata. Poi è chiaro che la responsabilità, cioè io questo non faccio un'operazione buonista, certo. Ecco, anzi, mi interessa proprio mettere in scena il contrasto. Sì. Cioè, la responsabilità maggiore è sua, chiaro, perché è lei che si è autodistrutta completamente. Però ho voluto raccontare la complessità di un'anima che ha cercato, comunque ha cercato, si dicono veramente cose sorprendenti sulla sua vita personale, ha cercato fino all'ultimo comunque una via d'uscita, no? Ha cercato fino all'ultimo una via di fuga e poi non ce l'ha fatta. E non vogliamo svelare oltre, perché no, infatti, perché altrimenti no. Mi tolgo magari qualche sorpresa. Vedrai che sono proprio sorprendenti alcune cose che vengono dette della tua vita. E l'appuntamento è per venerdì 5 luglio alle ore 21 all'interno della rassegna San Francesco Estate con la curatela di ERT. Grazie a Melania Giglio. Grazie a voi tutti, vi aspettiamo venerdì sera. Me and my head. Allora, avrete intuito che ho strutturato il format spostando un attimo la pubblicità, mi scuso con l'ufficio marketing ovviamente, ma ci sarà motivo a breve di recuperare la pubblicità delle 8. Abbiamo 3 spettacoli, quindi ho posticipato, diciamo, un pochettino. Ma non ci fermiamo qui con Erte, con San Francesco Estate, e troveremo motivo di portare in scena anche una rassegna. La rassegna all'interno di San Francesco Estate, che è Bonoir, e sarà invece per sabato 6 luglio. A tra poco!